monumentali bronzi di Riace, le affascinanti antichità di Sibari, gli splendidi scenari di Capo Vaticano, 30 navi di rifiuti tossici affondate davanti alle spiagge, signore e signori, tesori nascosti della Calabria.